7, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mettete su un po' di Rolling Stones e andate tutti a farvi fottere. Farvi fottere. Farvi fottere. Pronto, pronto. Prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno. Non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia. Mussolini l'ha salvata. Questi sono dei cretini che non sanno niente. Non sanno niente. Non lo sanno. Perché sono giovani e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Ma come, papà, andiamo? Che c'è? È tua figlia che dice, ma papà. Lo riporta in corsia, lo riporta a fare la visita. Dai, andiamo, papà, è finita, su, lo porta a fare. Scusami, la visita. Scusami, chi è tua figlia? Mi passi tua figlia un attimo? Vuole mia figlia? Eh sì, qualcuno, papà, andiamo. Tu sei incazzato, sei fascista. Siamo in mezzo alla campagna. Ma sei fascista tu, Orlà? Senti, Antonio, vogliono parlare con no, te. No, ma sei fascista o no, Orlando? Pronto? Signora, ma suo padre è fascista? Parlano sempre male di Mussolini. Non glielo so dire, forse sì, penso di sì. Eh sì, perché dice parlano sempre male di Mussolini e lui si è incazzato. Perché sono giovani e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Via così, senza la casa, senza la famiglia, con le mazze al culo, ai semafori a chiedere la posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamoci? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A so collega, mica so comunista così, sa! So comunista così! Io ti denuncio, Naturalmente. Ragazzi, evviva l'integrazione! Evviva l'integrazione davanti a una moschea! Davanti ad una moschea a Roma, nel quartiere Esquilino, una moschea peraltro che era stata chiusa nei mesi scorsi. Si sono baciati due ragazzi. E un signore, non so se africano o del Bangladesh, ancora non si sa bene, si è scagliato contro questi due. È vietato baciarsi davanti alla moschea. Ragazzi, andate a scopare davanti a una moschea. Piazzatevi con le macchine. Piazzatevi con le macchine davanti a una moschea e andate a trombare davanti a una moschea. Ma non si fa l'amore in macchina. Si può fare, a maggior ragione, andate davanti a una moschea. Si va in posti nascosti a fare l'amore in macchina, l'abbiamo fatto tutti tante volte, ma uno non si mette in Piazza del Popolo o che davanti al Vaticano a fare l'amore. Scusami, stai già cominciando molto male. Ma che cosa stai dicendo? Ma io mi appello alla Confindustria, mi appello a Guido Gentili, mi appello a tutti i vertici apicali di questa radio. Come fai a dire andate a fare l'amore davanti a una moschea o davanti al Vaticano? Assolutamente. È sacrilego. No, il Vaticano l'hai detto tu. No, è uguale. Allora, ma scusami, ragazzi, io sarei per... Quei due ragazzi non hanno fatto nulla di male, ovviamente è bellissimo darsi un bacio e tenersi la mano. Ma potevano evitare di farlo davanti a una moschea, dici no, tu? No, non lo sosterrei mai questa cosa, ma non direi mai andate a fare l'amore davanti a una io moschea. Io dico di più, piazzatevi davanti alla moschea di Roma, che è in una zona nord di Roma, per chi è a Roma, e lo sa benissimo, anche se ci ascoltano in tutta Italia, andatevi a piazzare con le macchine davanti a una moschea, fate l'amore tranquillamente, scopate in macchina, ma che è una cosa che hanno fatto tutti, in gesto di disprezzo verso questa cosa qua. Ma di nascosto. Come un gesto atto di disprezzo nei confronti invece, del bigottismo. Ma perché uno deve disprezzare? Andate, sì, certo, nei confronti del bigottismo e dell'atteggiamento che hanno nei confronti del sesso gli islamici. Andate davanti alla moschea a Roma, in un luogo anche appartato, la moschea a Roma, piazzatevi lì davanti con la macchina, fate quello che dovete fare, poi mentre ve ne andate abbassate il finestrino e fai tiè, sai come? Ma quelli sarebbero atti osceni in luogo pubblico. Ma che atti osceni in luogo allora, pubblico? Qualsiasi scopata in macchina è atto osceno in luogo pubblico. Infatti in genere il consiglio che va dato è quello: fate l'amore in macchina se volete, sì, però fatelo magari come in qualche posto un po' appartato. Come io sei... non voglio far vedere il sedere della mia bella davanti a tutti, ma che porcheria, come perché sei... tu sei un esibizionista. Adesso mi stanno scrivendo tante il persone. Car sex, lo conosci il car sex? Tu il no, car non sex, so cosa sia, cioè c'è una abitudine sessuale da parte di un numero ormai nutrito di persone in cui portano praticamente la propria. Vabbè, te lo racconto più tardi, che sono 18:39, sennò altrimenti si incazzano. Dai. Il professor Zecchi sull'estrema destra, che non dico che ha vinto, ma insomma ha ottenuto un grande risultato, come sapete, in Germania. Poi ho qualcosa da dire su questo, sulla signora lesbica che guida questo movimento. No, che si è dimessa, che si è dimessa, ma, come tu che sai. Che me ne frega, dimessa o non dimessa, lascia perdere, no, sempre capo del partito è. No, no, ha lasciato anche il vabbè, Parlamento, perché in polemica con gli ultranazionalisti nazisti di vabbè, quel partito. Ma... no, devi dirla il professor tutta, la Zecchi, lesbica. Il professor Zecchi. Vabbè, sentiamo. Vedete, anche è una scorciatoia, direi culturalmente indecente, quando si dice neonazisti, ma la leader dell'AEDF è una lesbica che sta con una di colore dello Sri Lanka, che hanno due o tre bambini di non so quale colore. Ecco, se ci fosse Hitler, le avrebbe riservato una camera gas tutta per lei. Probabilmente anche per la fidanzata. La cosa incredibile è che se fosse stata lesbica una di sinistra, l'avrebbero innalzata su un piedistallo dicendo: ecco il grande esempio di progressismo, una sinistra lesbica come la leader della Serbia, no? Che sta addirittura con una di colore, hanno addirittura dei figli, cioè possono adottare dei figli. Siccome è di un movimento di estrema destra che viene dipinto, ovviamente non è così, come un movimento neonazista, la cosa che è lesbica dice: beh, questa, oltre al fatto che è nazista, è pure lesbica, cioè ci deve essere qualcosa di ma mattoide, scusa, nel cervello. Ma no? Avete massacrato Vendola per dei mesi per il fatto che ha andato, sì, io, anche io. Insomma, non so se mai. Tu, ma hanno massacrato Vendola. Ora, quel partito non sarà un partito neonazista, ma è un partito dell'ultradestra in cui ci allora... sono persone che negano le camere a gas e dicono delle puttanate. Ma... sì, ho letto tutto. Ma in non c'entra giorni. Niente. Tant'è che questa lesbica, chiamiamola così per comodità, la leader del partito, si è dimessa in polemica con questi. Questa è la notizia di oggi, e questa roba qui, la lesbica di destra si è dimessa dalla guida del partito. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Problemi della Germania. Intanto mi piace tanto la lesbica di destra, perché si è dimessa, ma sti cazzi, in modo dispregiativo. No, voi la chiamate in modo dispregiativo. No, io De Luca, De Luca a Salerno non c'è la camorra, vai. In altri territori come quello di Salerno, dove non essendoci una camorra che governa il territorio, vi sono centinaia di extracomunitari che pensano di occupare militarmente il territorio e di fare quello che vogliono. Parliamo di centinaia di extracomunitari. Se lei va sul lungomare di Salerno, in orario serale o nel fine settimana, troverà centinaia, è qualcosa di impressionante. È un caso unico in Italia, non c'è nessun'altra città d'Italia che ha questa realtà. Centinaia di persone che ritengono di poter mettere i propri tappeti per vendere prodotti di contrabbando dove, quando e come vogliono. Vai, così ti vogliamo, governatore del mondo! Vai, vai! Adesso, non so se a Salerno la camorra sia scomparsa, come dici tu, caro governatore, però queste centinaia di extracomunitari impressionanti che vagano per la città piazzando tappeti ovunque, vendendo mercanzie, eccetera, vogliamo dire una cosa che è una caratteristica solamente italiana? Lo vogliamo dire? Mi pare vergognoso, però, quello che ha detto, quello che tu chiami il governatore del mondo. Cioè, siccome non, il passaggio più brutto è quello. Dice, siccome non c'è la camorra, ci sono gli immigrati che vendono i loro prodotti irregolari. Cioè, a dire che laddove c'è la camorra, gli immigrati non si permettono di vendere le loro ciambrusaglie. Adesso stai facendo un ragionamento un po' più. Questo ha detto, ha detto siccome non c'è la camorra, ci sono gli immigrati che fanno quello che gli pare. Questa è la sostanza. Allora, l'incredibile voltafaccia di Alfano. A me non me ne frega nulla, anzi, il fatto che non venga approvato lo Ius Soli, sono assolutamente d'accordo sul fatto che non venga approvato. Ma la vergogna di Alfano, leader di un partito che non esiste, e soprattutto solo per convenienza, solo ed esclusivamente per convenienza, anche in questa vicenda dello Ius Soli, prende una posizione assurda, perché lui dovrebbe essere in teoria a favore, no? Ti faccio ascoltare il 19 giugno, ti prego, Alfano il 19 giugno. Guardate l'ipocrisia e proprio il paraculismo di uno che vuole solo occupare poltrone, non gliene frega nulla del resto, nulla, solo le poltrone. Senti. Il tema dello Ius Soli risponde a una domanda esistenziale. La questione di fondo è che noi, se questo provvedimento verrà all'esame definitivo del Senato, voteremo di sì e io proporrò di votare di sì. Il 26 settembre, cioè oggi. Una cosa giusta al momento sbagliata, amico mio. Se una cosa è giusta, se ne fai una questione di civiltà, come dici tu, allora la approvi o comunque voti sì. Te ne fotti dei voti, te ne fotti delle elezioni. Invece, con grande la stessa cosa ha fatto Renzi e gli altri, lo faranno, per carità. Però proprio il paraculismo estremo di quest'uomo, impressionante. Parenzo, non è impressionante il paraculismo? Sì, no? Ma un paraculismo fa politica. Ma fa politica, dai, ma sono le frasi scolpite. Hai sentito? Voteremo a favore, dirò di votare. A favore. Senti cosa dice adesso. Lui dice per tenersi buono Alfano. Vergogna. Adesso ci pensa Lutto anche fra poco. Ribadiamo sullo Ius Soli che una cosa giusta fatta al momento sbagliato può diventare una cosa sbagliata e può anche diventare un regalo alla Lega. Mamma mia ragazzi. Fra poco risentiamo Luttwak contro il Papa, perché mi fa godere ragazzi. Luttwak contro il Papa mi fa godere. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, David, un ascoltatore scrive, qui facciamo tutto in diretta, ragazzi, di a quell'ignorante di Parenzo che non è stata la lesbica Widl a aver lasciato il partito tedesco, quello di estrema destra, ma un'altra, una tale Petri. Ragazzo, informate bene prima di parlare, però. No, la leader è un'altra, non quella. Informate bene prima di parlare, non è la lesbica che ha lasciato. Hai detto ha lasciato. Ma chi se ne frega? Ma sono robe tedesche! Non me ne frega un cazzo! Perché? Con la ragione, ma chi se ne frega? Ma non me ne frega. Ma non siamo in, in Germania, qua non me ne frega nulla. No, ma siccome tu hai detto che non è un partito dell'ultradestra con dentro dei rancorosi. Io non ho detto questo, ho detto che non sono neonazisti. Hanno la stessa posizione più o meno della Lega. Hanno la stessa posizione della Lega. Ma quest'altra non se ne sarebbe andata. Ma quest'altra non è il leader, ma chi se ne frega del perché uno se ne va? Perché si è dimesso? Perché se ne andata? Ma non mi interessa, ma non è la Zanzaren questa qua, è la Zanzara! Non siamo in Germania! Zanzara! La roba è incredibile, guarda! Allora, ragazzi, fatemi godere, dai, forza! Forza con. Io non sono un cattolico, né un esperto sul Papa, né considero il Papa importante. Sì. In Italia lo so che il Papa è sempre più importante del Presidente del Consiglio, nelle pagine dei giornali, nei media, ed è uno dei problemi dell'Italia, il fatto che la sovranità in Italia è condivisa con un'altra entità. quando tutti gli italiani sono solidali, non so, non tutti per carità, maggioranza, dice che non vuole i migranti sbarcare in Sicilia, il Papa dice che li vuole, vince il Papa. Sì, che è una proprio, e poi la Guardia Costiera italiana va a cercarli sotto le coste libiche in obbedienza al Papa. Il posto giusto per il Vaticano è una città stupenda che si chiama Avignon, dove c'è un bellissimo ponte e c'è un palazzo papale in perfetto stato di conservazione. Cioè il Papa se ne va, se ne torni ad Avignone. In Francia il governo francese non divide la sovranità. Mamma mia ragazzi, che goduria, vada ad Avignone, non può dire nulla sullo Ius Soli perché non è cittadino italiano, questo pure è una cosa che mi fa godere, non può dire nulla perché non è cittadino italiano, godo con Luttuac, godo. Nardella ha parlato, credo che fosse al Consiglio Comunale di Firenze, ha parlato sulla questione della prostituzione. Allora, Nardella non è incaricato di risolvere il problema delle minorenni che vengono avvicinate dai puttanieri o da chi vuole andare a puttane. Il problema della tratta delle minorenni non è di competenza del Comune di Firenze, è di competenza della polizia. Dunque, se lui prende un provvedimento non è per proteggere le minorenni o per combattere la prostituzione minorile. No, non se ne deve occupare il signor Nardella, se ne devono occupare altri. Poi sono casi minimi quelli che uno per strada trova una minorenne. Vabbè, allora Nardella si occupa di prostituzione minorile adesso. Avanti, forza, sentiamo Nardella. No, chi ma in nella sua sala crede che anche solo una di queste donne di cui stiamo parlando venga qui per farlo volontariamente, lo dica, se ha il coraggio. Perché non è così. Se raccontiamo questa favoletta in giro, diciamo una cosa gravissima, oltre che falsa, gravissima. Non c'è differenza, questo è come Sberna, non c'è differenza tra violenza e prostituzione, cioè lo stupro e la prostituzione, la violenza nei confronti delle donne e la prostituzione è la stessa cosa. Ma io dico, ma come cazzo si fa a dire cose di questo tipo? È gente che ha studiato, è gente che fa politica, è gente impegnata, è gente che conosce il mondo, dovrebbe conoscere, anzi forse non lo conosce per niente. Ma come si fa ad accostare la violenza che nei confronti di una donna da un commercio, che è chiaramente un commercio, io lo dico chiaramente, è un commercio, lascia perdere il cazzo delle minorenni sfruttate, quella è un'altra cosa. Ma la prostituzione, una per strada maggiorenne che si vende e una stuprata, ma come cazzo si fa a paragonare? Se hai il pappone, dai, sicuramente su, è così. Ma se che, hai il ma pappone spesso è una questione, è sfruttata. Ma dai, ma che c'entra questo? Che c'entra con lo stupro? Cosa c'entra con lo stupro? Se hai il pappone è sicuramente sfruttata ed è una forma di stupro, di violenza, ma quale anche quella, stupro? Certo. Ma quando? Qual è la differenza tra una violenza perpetrata su una ragazza, va bene, e quella che viene costantemente, ogni giorno, ogni notte fatta su una donna? Perché quando io approfitto del corpo di una donna, sapendo che quella donna è costretta con la violenza a darsi, io credo che da un punto di vista di principio e concettuale non c'è nessuna differenza. Questa è purtroppo la disgrazia della Chiesa Cattolica in Italia. Purtroppo è la disgrazia. No, è la disgrazia, è la disgrazia, è la disgrazia del moralismo. È l'umanità, è ma l'umanità. Ma cosa c'è il moralismo? Dai, è l'umanità. Su, ma è una vergogna. È il vedere in quelle donne delle persone e non delle macchine da soldi e non dei corpi Paolo in vendita. Dalla provincia è di Milano. È l'umanità. Ma che umanità? È l'umanità. Paolo, provincia di Milano, vai. Non Paolo. C'entra. Andate a salvarle chiesa, allora, vai. Paolo, provincia di Milano, dai. Infatti sì, ci sono associazioni che le salvano. Paolo, vai. Sì, io volevo dire che sono incazzato come una bestia, perché qua a Boffalora, in località Magnana, c'è un presidio. Dove si trova? Dove ti trovi? Boffalora, non so. Boffalora, e abbassa la radio, abbassa la radio che no, c'è il ritorno. È spenta la radio. Allora, dai, dimmi. Boffalora, c'è un presidio di quegli anti-vivisezione che mi sembra di aver riconosciuto anche quella Riccia, che si era incatenata lì sotto di te, che mi ha fatto perdere mezz'ora perché sono in mezzo alla strada a scassare la minchia alla gente per bene che va in giro a lavorare. Sono in otto e ci sono due fotografi e non devono scassare la minchia. Se vogliono protestare, che vadano su internet dove gli piace, ma non alla gente per bene. in otto sono lì con i manifesti, con scritto. Vabbè, sono quelli che manifestano contro i mattatoi, probabilmente, ma non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Questo è il punto fondamentale. Mentre tu lavori, mentre tu ti sposti, mentre tu sei una persona che impegna il proprio tempo a lavorare, queste persone non hanno una mazza da fare dalla mattina alla sera e passano il loro tempo ad andare a protestare contro i mattatoi, che sono una cosa benedetta perché forniscono la carne e vanno salvati, vanno salvaguardati. Quelli che ammazzano gli animali, quelli che li tagliano a pezzi, sono delle persone che sono attaccate da tutti come dei mostri, da questi cretini come dei mostri, ma vanno salvaguardate. Sono delle persone che vanno abbracciate, sono delle persone che probabilmente amano gli animali molto più di questi cretini che vanno lì. Beh, non so benissimo chi sono, caro Paolo, e so che ti scocciano e so che ti rompono le balle perché si creano delle file e uno vuole tornare a casa tranquillo, magari ascoltando. Esatto! Bravo, bravo, non devo scassare la minchia. Poi c'è scritto le Iene, quelle robe lì. E la cosa che mi ha fatto veramente scendere la catena . È che era lì in otto e c'erano due fotografi mandati da chi? Ma no, ma quello è una cosa organizzata, chiaramente. Che vuoi dire? Domenico, Roma, vai, Domenico. Ciao Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi, vai, veloce. Ascolta, vai. Io volevo tornare, sì, velocissimo, alla prima notizia che hai dato. Volevo capire da Parenzo, allora, se due persone si baciano davanti a una moschea, che tra l'altro è abusiva, sì, quindi io posso anche non sapere che la moschea è lì, c'è qualcosa che non va. Invece l'altra volta che hanno beccato quello che pisciava sul colonnato di San Pietro, o cagano ovunque, no. Non c'è niente che non va. Io ho detto prima che si possono baciare liberamente, ho detto che sarebbe assurda la provocazione di Cruciani di dire andate a fare l'amore davanti alla moschea, ma è ovvio che si possono baciare e tenere per mano. Anche fosse andare a fare l'amore davanti alla moschea, che l'ha detto tra l'altro in una forma molto tranquilla, non vedo qual è il problema, visto che questi pisciano, cagano e sporcano ovunque. Lei... Ma scusi, ragazzi, rispetto. andiamo tutti. Fermi tutti. Dica, no, fermi tutti. Dica, andate tutti. No, sono Cruciani. Andate tutti con grande tranquillità davanti alla moschea di Roma in forma di protesta. Fate l'amore tranquillamente dentro la macchina e quando andate via dalla macchina abbassate il finestrino e fate il gesto dell'ombrello. E fate il gesto dell'ombrello nei confronti degli islamici bigotti che non vogliono che voi vi baciate davanti a una moschea, davanti a un centro islamico, davanti a quello che è. Baciatevi, slinguatevi, fate l'amore, il car sex dentro la macchina non mi interessa, è la stessa cosa. Se tu dici a qualcuno, a qualche islamico, secondo te è giusto baciarsi basta davanti a una moschea, ti dicono di no, ma ti dicono che è sbagliato. Ma voglio vedere adesso, facciamo un sondaggio come baciarsi davanti a una chiesa, ma far l'amore davanti alla chiesa sarebbe una cosa sacrilega. Ma che sacrilega la macchina davanti alla chiesa? Sai quante persone hanno scopato in vita loro davanti ma a una chiesa? Che bisogno pieno c'è di far l'amore davanti perché alla chiesa? Perché uno magari trova una situazione in cui lo fa. Trova una situazione. Ma fatelo a casa tua! A casa tua! Che bisogno. O vai in un boschetto. Mi piace farlo davanti alla moschea. Mi piace farlo davanti alla moschea e fare il gesto dell'ombrello. Al coso, all'imam. Ma paga un albergo! Paga un albergo 5 stelle lì in the world! Paga qualcosa! Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron, tu sei riccione come Macron, ispiro, come Macron, ispiro, come Macron. Implo vuol dire fatto davanti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Chi ti è morto? Chi ti è morto? Stai zitto che non sei nessuno! Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se vuoi mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Quinta colonna, caro David, si scontrano la sindaca della Lega Ceccardi e il padre dei ragazzi stupratori, il mitico Mohamed, intervistato anche qui alla Zanzara. Ma che confronto, sentiamo, grande confronto, senti. questo le dico un appello a tutti gli immigranti, vedete quelli due profughi che hanno salvato, fate così, così, questo è il bello, non andate a delinquenti, a sfacciati, sì, perché la fine non è una bella vita. Il signor Mohamed doveva spiegarglielo bene prima ai loro figli di non fare quelle cose. Io sinceramente da padre o da madre mi vergognerei di andare spiegato in televisione a dire sono dei bravi ragazzi, dopo due o tre anni di galera tanto escono, come ha detto in un'altra intervista. Scusa. Io mi vergognerei, fossi lei, di aver allevato tre bestie, io mi vergognerei di venire in televisione a dire che comunque sono dei bravi ragazzi e scusate, no, mi dispiace, non bastano le scuse, mi dispiace, lo capisce? Questa che è non la bastano verità, scusa. Comunque lo sai che questa Ceccardi, peccato che è fidanzata con un nostro ascoltatore della Zanzara, è un manager che viaggia, eccetera, lo sai che suscita una certa... una certa eccitazione, suscita qualcosa la signora Ceccardi, ma no? Non so, ma non... Questa rossa, frega, questa rossa... Ma me frega niente, a me, me frega niente, cosa vuol dire? Ma che discorsi sono? Come non me ne frega? Adesso, come ma non me ne frega niente! Ma nemmeno della figa le importa, Feltri, non ho capito. No, l'unica cosa che mi interessa è quella cosa lì, ma non me ne frega niente della politica, io sto a Bergamo, non mi interessa niente! I'm with you. Razzi crede di risolvere la questione tra Trump e Kim. Ha riferito di una lettera che l'ambasciatore della Corea del Nord gli ha consegnato. Sentiamo tutta la storia. Antonio Razzi, ancora una volta mediatore. Giovedì sera di corsa è venuto il nuovo ambasciatore al pullman per il ritorno da pescare. Io ero con... sai, viaggio sempre in pullman e gli ho detto guarda, purtroppo io devo ripartire. No, ma è vero, dice è urgente, lo dobbiamo consegnare subito. E io infatti oggi lo consegnerò alla commissione esteri. La scena è questa. Stazione dei pullman di Pescara. Ma Razzi figurati, sta tornando a Pescara. L'ambasciatore della Corea del Nord si precipita presso questa stazione degli autobus a Roma, presso la stazione Tiburtina, per consegnare una lettera di Kim Jong-un. Ma ragazzi, figurati, è strepito. Ma che figura, di sarà vero. Ragazzi, molte cose sembrano incredibili, ma sono la verità. Prosegue ma la adesso, storia. È chiaro che quello lì è uno stato barzelletta. Ragazzi, ma la scena dell'ambasciatore prosegue, che corre alla Tiburtina per consegnare una lettera a Razzi che sta andando a Pescara in pullman. Ma capisci, amico mio, che neanche Renato Pozzetto nei suoi film. Vai, vai. Aspetta, vediamo dove l'ho messo. Ecco. Me ne è venuto a portare urgente. Fatto in inglese. Però qualcosa ho riuscito a capirci, insomma sono due pagine. Qualcosa ho riuscito a capirci. Ma come qualcosa ho riuscito? Ma andiamo avanti, avanti, avanti, avanti. C'è, diciamo, accusi, diciamo, a Trump in base all'ultimo discorso, ma il primo discorso che il presidente Trump ha fatto lì all'ONU è stato molto ma molto duro. Nella lettera c'è accusi a Trump. Prosegue questa incredibile, questo incredibile racconto prosegue? Di Razzi. Prosegue la guerra nucleare alla grammatica di Razzi, è l'unica guerra che vedo io ora. Si accusano senza nemmeno sedersi al tavolo e guardarsi negli occhi. Allora, diciamo, solo per sentito dire non va mai bene. Meglio conoscersi e magari così c'è più rispetto. Ecco perché mi sono messo a disposizione eventualmente di farli dialogare. Io li farò dialogare. Se l'asino non vuol camminare è inutile a fischiare. Questa è una massima di Razzi, sentiamo. Non so cosa dovrei fare. Si dice quando l'asino non vuol camminare è inutile a fischiare. Che voglio dire con questo? Voglio dire che io ho dato la mia disponibilità, ma nessuno ti sente, ahimè. Purtroppo gente come si suol dire, gente che non crede, gente che magari pensa che io sia Crozza, come mi definisce Crozza, come molte volte vengo preso in giro, come, diciamo in parole povere, come uno scemo. Come si dice in tedesco, tut mir leid, mi dispiace, sarebbe a dire tut mir leid, mi dispiace ma non è così. Ecco perché molte volte a mente mi viene, ah ja, cacciolac, potete pure ridere, poi alla fine contiamo le pecore. Beh, devo dire che questi proverbi, questi detti razziani sono straordinari. Pecore? Potete ridere e poi pecore? Alla fine contiamo le pecore. Lo sai che lui dovrebbe fare solamente questo? Cioè ogni volta che lo intervistano dovrebbe rispondere solo così, con queste massime, con questi proverbi forse abruzzesi, forse nazionali. Ma lui dovrebbe so. Fare l'ambasciatore dell'Abruzzo. Aspetta, del mondo. Se l'asino, ma che cosa. Cazzo c'entra? Se l'asino non vuol camminare è inutile a fischiare, bellissimo. Cioè significa che se un asino non vuole camminare, è inutile che tu fischi se poi non vuole camminare, come dire. Sì, un asino che non cammina. No, non è inutile, tu puoi anche fischiare, tanto non camminerà mai. Dunque, se mi vogliono dare questo incarico, bene, altrimenti sì, è inutile sì. Stare lì, no? Ma lui è l'asino, infatti è la metafora stupendo. Perfetta, metafora giusta. Allora, Angelo da Firenze, vai. Pronto? Dimmi, Angelo, dimmi. Pronto, dunque, ti ricordi come hai iniziato questa sera la tua trasmissione? Cioè, con che cosa, dimmi. Con il fatto, ecco, del bacio lì davanti alla moschea, no? Allora? Esatto. Allora, volevo dirti con molta semplicità questo, a prescindere condividere o non condividere. Sì. Ma tu che sei un grande arruffapopoli, no? E te ne stai questo lì... Questo lo dici tu, naturalmente. Beh, lo dico io, certo. Allora? E stai lì al microfono e poi te ne torni a casa. Allora, se credi in ciò che hai detto, vai tu con i tuoi a fare questa manifestazione. Sì. Giusto. Beh, allora, chi ha detto che non lo faccio? Chi ha detto che non lo faccio? Magari lo farò. Che lo fa... No, dillo che lo ragazzi... fai. E sabato, quando sei libero, vatti a mettere lì. Prima cosa. Seconda cosa. Sei tu che devi dirmi quello che devo fare, non ho capito. No, sono anche allora... io come il pubblico che ti segue, capito? E non fare tanto lo spiritoso. Ma okay? Perché non fare lo spiritoso? Perché me lo devi dire. No, se... non fare lo spiritoso. Me lo dici io tu se fare dire... lo spiritoso o no? Io posso dire Ehi, quello vabbè, che voglio, visto che tu sei un liberale. E allora, infatti, lo stai dicendo. Allora, lo sto dicendo e quindi lasciamelo devi dire. Devi andare L'altra tu davanti cosa... alla. Ma devi andare cosa? Devi ma andare cosa tu, devi? Ma vai. La ruffa popoli. Ma devi cosa? Non c'è un. Un cotardo, un cotardo. Perché butti il sasso e nascondi la mano. Ma io non lo so, ma io ho detto semplicemente per capito? Chi si oppone a questa anziché cosa. Stare a casa tua, anziché stare a casa tua davanti a un microfono che è molto semplice, vatti a mettere tu lì davanti e fai quelle cose. Ma almeno cosa qualche c'entra? Multa la pagherai. Ma cosa capito? C'entra? Cosa comunque c'entra? Io ho già telefonato perché ho degli agganci al Ministero dell'Interno. Sì, tu hai chiamato il Ministero dell'Interno, sì. Sì, certo. Sì, vuoi sapere? Chi hai sentito il Ministero dell'Interno? L'usciere. Hai chiamato l'usciere, hai sentito? Ho chiamato quello che lava i bagni del Ministero per carità, dell'Interno, cose, se ti interessa, cose assolutamente. Quello che lava i bagni, e allora? Perché tu non sai che a volte quello che lavano i bagni ti fanno arrivare più bene, di un usciere. Hai chiamato l'usciere, capito? Allora? Ho chiamato quello che lava i bagni e, allora? E domani io manderò un'email con il post-tax della tua trasmissione e vediamo un attimo se la polizia interverrà. Ma sai cosa fanno questi qua al Ministero degli Interni? Prendono la tua mail, primo ci si puliscono il culo, secondo la buttano dentro il cesso. Forse il tuo, e ricordati che quello che dici, va bene, a parte che tu non sai nemmeno quello che dici perché a te non te ne frega nulla e di nessuno e quando torna a casa Angelo, tua, perché sei così avvelenato stasera? Perché sei così avvelenato? Sono così avvelenato perché quando Angelo? quando uno in Europa, come anche in Italia, ti posso consigliare qualche escort? Ti posso consigliare qualche escort a Firenze? No, quelle ce l'hai tu. No, ma per rilassarti, capito? Per rilassarti a Firenze. Senti, non chiudere i discorsi con queste cazzante quando non ti vanno i discorsi, va bene? Ho delle escort da consigliarti che ti farebbero rilassare stasera. Questo, dilli è un relax. Ai tuoi parenti, amici e conoscenti. No, ma ho un paio di escort interessanti a Firenze. Forse loro ce la fanno, capito? Ma non ci sarebbe niente di strano. Se andassero con l'escort, tu c'hai solamente la bocca e il microfono da parlare, quello ce l'ho, sì, quello è vero, sì. Prima che entri in trasmissione, quando esci non sei niente. Ma che vuol dire? Comunque, ma cosa vuol dire? Ti ripeto, ma sono Europa, frasi senza senso. In un'Europa, sono frasi che hanno un grande senso. Allora, in un'Europa, in un'Italia in cui ci sono problemi di terrorismo e istigazione, una scemenza del genere, istigare a fare una cosa del genere, sai cosa significa? Che significa? Va bene, poi non veniamo a fare tanti piagnoni. È un reato. Denunciami, caro. Denunciami, anzi, con la Z. Sì, denuncio, dice... certo. Denuncia, certo, dai, certo. Denuncia. Certo. Ma certo, denunci dove? Denunci dove? Non ha senso. Denunci per fare cosa? Per fare cosa? Per fare così, i carabinieri si mettono, ti presenti là davanti, si mettono a ridere e chiamano degli infermieri. Allora, ascolta così, infermiere, quello chiamano infermieri per un trattamento sanitario immediato. Vogliamo fare una scommessa? Ma io ti ripeto, io ti consiglio un paio di escort a Firenze. Io vado dai carabinieri. Ma io ti voglio consigliare stasera. Con il registratore e vediamo se si mettono a ridere. Ci stai a questa scommessa? Tu devi andare con il registratore, devi fargli sentire Angelo, la puntata un secondo, su internet. Angelo, aspetta un secondo, aspetta lì, non te ne andare, aspetta. La gente deve scopare di più, così sta più calma. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Guarda che strano il mondo, cioè una cosa è umiliante, il corpo della donna, e quando ti lava i pavimenti non è sempre il corpo della donna, mio caro Parenzo. Poi c'è quella cazzo di voce di donna che avete messo, che dice la gente deve scopare di più perché così sta più calma e più tranquilla. Ma se mi tolgono le puttane, quando cazzo scopo? Angelo, allora non ho capito. Cosa non hai capito? Dove vuoi andare? Non ho capito. Allora, ai carabinieri a fare cose, tu che lavoro fai? Cioè, come passi le giornate? Io sono uno psicologo. Uno psicologo, benissimo. Ecco, no, è importante lo psicologo, ottimo. Ci voleva. Fammi un po' di analisi del mio pensiero. Io non faccio queste cose perché non ti conosco personalmente se non tramite la radio. Sì. E quindi non sarebbe assolutamente, sarebbe uno spettacolo. Io ti volevo dire semplicemente questo. Dimmi. E parlo in questo momento al signor Parenzo, che già ti ha accennato a qualcosa. Tu istighi al reato. Istigo al reato? Che cosa significa? Non c'è dubbio reato, cosa? Quell'altro dice, non c'è dubbio. Atti osceni in luogo pubblico. È così. Mandi quelle persone che la polizia li fa o la multa o li porta in questura. Aspetta un attimo, Angelo, aspetta. È così. Beatrice? Sì, tesoro. Ciao tesoro, tu sei a Firenze, tesoro? Sì, certo. Ciao, scusami. Ma chi è questo? Aspetta, scusami. Io ti volevo portare una persona, un mio amico che ha problemi e vuole passare un po' di tempo con te. Quanto costi? No, guarda, è vero. Qua io la prima cosa non so per aspettare a prendere in giro da nessuno. No, ma non è una presa in giro, veramente. Quindi, c'è un signore. Devo ridere e continua a ridere, però no con me. No, scusami, Beatrice, perdonami, non ti voglio far perdere tempo. Beatrice, pronto? Beatrice, no, scusami, allora c'è una persona a Firenze che io conosco che si vuole rilassare perché è molto nervosa, mi accusa delle peggiori nefandezze e vorrebbe passare, secondo me ha bisogno di passare almeno un'ora con una prostituta, eccetera. Siccome so che tu sei molto brava, sei una persona sulla piazza molto conosciuta, quanto costa allora venire da te? Non ho capito, scusami. Non ho capito. No, so che sei una persona molto quotata sui siti sei molto quotata, capito Beatrice? Ma aspetta, però mettiti bene, sennò non capisco. Ma io sono messa bene, però tu non sei messo per niente bene, non senti. Brava, no, io brava, sento Beatrice, sento bene adesso, ti posso portare questa persona che ha bisogno un po' di... 200 euro. 200, Angelo, va bene 200? No, 500. No, dai, 200 euro, gli vuoi dare 200 no, euro? No, per... 200 io valgo molto di più, mi dispiace. Ma che vali che c'è? Lei che devi dare i soldi, non te. Cioè, tu che te... No, per andare con lei valgo io. Scusa, Angelo, tu hai bisogno di passare un'ora, hai bisogno di passare un'ora con una prostituta. Ascolta, così ti rilassi. Così mentre ti rilassi, così stai tranquillo. Mentre hai fatto quest'altra buffonata, sì, questo è un reato. Ma reato bravo. Di cosa? È vero, ha ragione, è un reato. È istigazione alla prostituzione. Induzione, bravissimo, è un reato, non c'è dubbio. Caro mio, e io quando dico, scusami amico mio, quando io dico che in questa radio vengono commessi quotidianamente reati, e invito il signor Woodcock ad ascoltare per un giorno intero questa trasmissione, troverà sicuramente notizie di reato. Anche oggi ne sono stati commessi almeno 5 in un'ora di trasmissione. Vabbè, Angelo, io ti auguro una buona serata, ciao, e buona serata, e ti mando serenamente a fare in culo. Io non ti mando a fare in culo perché non ce l'hai nemmeno. Ma serenamente, è un reato pure perché questo. È un altro reato. Ma non ce l'hai nemmeno. Certo. Non ce l'hai nemmeno. Quindi, beh, no, ce l'ho, dire. Quello ce l'ho. Ma che c'hai? Ma stai zitto. Ciao. Che vuol dire serata. Non ce l'ho? Cretino. Ciao, ciao. Ma non ce l'hai. Su, ma sei un imbecille. Altro reato, ingiuria. Ciao, altro reato. Michele, provincia di Bari. È una quantità di reati pazzesca. Dai. Pronto? Dimmi Michele, dimmi. Sì, ciao. Parenzo, maggioranza silenziosa. Vabbè Michele, forza, continua. Senti, senti Cruciani, io ho un deposito, un capannone, un deposito carico e scarico di lamiere. E allora? E ho 22 ragazzi di colore, unici, diciamo, bianchi niente. Allora, ti posso garantire, li ho presi 4 anni fa, li ho cercati nei supermercati dove fanno la questua. Allora, io ti posso dire che questa gente, se naturalmente qualcuno ha la possibilità di assumerli, è educata. Bravo, lavoratrice, bravo. Lavoratrice. Molto più degli italiani, bravo. Aspetta, bravo. Sorridente. E allora? Io un italiano da Roma in giù non lo assumerò mai. Ma che vuol dire un italiano non lo assumerai mai? Perché? No, è perché sono tutti certificati medici. Allora, senti, in 4 anni ho ricevuto un certificato medico di 3 giorni da un senegalese perché era febbricitante. Dunque, di a quella feccia che chiama a quei razzisti, quella feccia che bravo, poi il 90% degli ascoltatori tuoi è tutta feccia, non è che... Siete in tanti, lo ma so. Ma come ti permetti, bravo. Imbecille? Siamo come ti in tanti. Si sta risvegliando l'Italia migliore. Ma come bravo. Ti permetti, cretino? Come ti permetti? Feccia, ma feccia sarai tu, feccia sarai pura, tu. Feccia che chiama, feccia che chiama. Ma feccia sarai tu, feccia. Sono una minoranza, fratello mio. Fratello mio ascoltatore, sono una minoranza. Fidati di Parenzo. Sono una minoranza, quella feccia che... Non spaventarti, continua ad assumere solo migranti. Sì, bravo. Sì, bravo, sempre. Bravo, fratello mio. Questa, bravo. Assumi solo migranti perché ti conviene. Migliore. Perché ti conviene no, assumere solo migranti. Ti no, conviene perché, assumere no. solo migranti. No, diciamo guarda, la verità. Io vi pago più degli italiani e bravo, hanno la quindicesima, non la quattordicesima, la quindicesima ti puoi informare. Poi l'imbecille sarai tu perché tu sei un depravato, uno strisciante, un viscido, perché ti ricordo siete la Sì. Poi? State cosa, risvegliando grazie. L'Italia, bravi. State risvegliando. Grazie. Sgarbone, come stai, Sgarbone? Sgarbone, l'unica trasmissione che hai fatto lì a Rete 4 ti ha fatto come ancora. Un gerbino. E tu no, ti accodi ancora. Ti prosti a Sgarbone. Vabbè, allora. I tuoi amici quelli sono Trump, Sgarbone. Un vastasso, Sgarbone, un vastasso, non è altro che un vastasso. E poi mi viene a dire la tua trasmissione che c'è di 2 milioni di ascoltatori, il 90% è trash. No, quelli che vuol lavorare me lo mandi, io poi lascio l'indirizzo in redazione. Sì, ma lascia l'indirizzo. Deve essere di colore nero negro, come dici tu, nero. No, sì, io sì. Dico nero e negro uguale, non è io molto una diverso. Cosa ti posso dire, il giorno che avrò un giorno felice sarà quando leggerò che Cruciani è andato a sbattere sotto un tir con la macchina ed è deceduto. No, veramente. No, questo è brutto. No, questo è brutto. Il mio Vangelo, quello è brutto. Il miglior perdono è la vendetta. Brutto, brutto. Sei una vergogna, sei la vergogna dell'Italia. Grazie, sei la vergogna dell'Italia, sei. Sei un poveraccio, sei sempre. Ti ho fatto parlare perché sei semplicemente un poveraccio. Ti ho fatto parlare libertà perché sei semplicemente un poverino, un pover'uomo. Tu sei vero, se. Ma veramente io la cocaina non l'ho mai toccata in vita mia. Ma per cui. Perché si vede da come trasmetti. Ma non è vero, questo assolutamente. Michele, vabbè, Michele, sei Michele, tu sei semplicemente un poveraccio. Questo è il punto. Anche, sei un poveraccio. Se tu fossi tu vero, io non so se tu sei vero o no, può darsi pure che non sei vero, stai fingendo. Per quello che hai detto, sei semplicemente un cretino. Questo è il punto. Sei semplicemente un cretino. Questo sì, è il punto. Ho parlato con te perché, no, perché ma sei un cretino. Sei un cretino e basta. Continua a scivolare, a strisciare, che quello sai fare. Ma strisciare dove? Imbecille, dove? Dove? Ma dove strisciare? Ma dove strisciare? Io non ci credo che tu hai assunto solo immigrati, non ci credo, non è vero. Allora, senti, informati se vuoi lasciare redazione. Se vuoi, ti puoi informare, ma sì. Ditta. La devo dire in diretta, non la posso dire. Dimmi la ditta, dimmi la ditta. No, dimmi. Non me l'ho detto di non dirla. Dilla. Tax Wheeler, che dico? Dilla la ditta. Ti puoi informare, d'accordo, Cruciani? Continua a depravarti. Ecco, ma depravarti che? Ma di che cosa? Sei la vergogna di questa nazione. Buonasera. Ma di che stai? Buonasera, ma che con buonasera? Beh, però vedi, è educato però alla fine. Lorenzo da Imperia, vai Lorenzo. Sì, eccomi carissimo. Mi aggiungo al signore di prima e dico che sei la vergogna di questa nazione e sei un razzista. Sì, perché, sei un razzista. Perché sarei razzista? Avanti. Sei un razzista perché bello, stasera mi diverto, ieri sera sì. Parlavi di siete in di tanti ragazzi, però non esagerate perché la maggioranza silenziosa usa sempre comunque un linguaggio composto. Siete in tanti, siamo la maggioranza ragazzi, sì. Siamo la maggioranza, vai, ma manteniamo la calma. Hai ragione, ma mi nervosisce. Dai, dimmi Lorenzo, dimmi. Allora, ieri sera parlavi di questi famosi giocatori americani, sì, neri, che si sono ribellati. Assolutamente, sì. Allora? Hai detto che non si possono permettere di scioperare. Ognuno fa quello che vuole, no, per il fatto che no. Sono ricchi e sono. Forse non hai capito. Non scioperano perché non vogliono perdere la pagnotta. Non vogliono perché pensano alla pagnotta. Si inginocchiano davanti all'inno. Disprezzano. Disprezzano. Di meno famosi, sì. i quali rappresentano, sì. e portano la loro voce. I loro io diritti. Sono dalla parte. Io sono dalla parte di quei poliziotti, di quei militari che davanti all'inno americano. Si mettono sull'attenti, non da parte di questi milionari neri, i quali senza perdere un millimetro dei loro soldi, senza perdere nulla dei loro quattrini, disprezzano la nazione che li ha resi. No, ma è strano che chi come te difende la libertà. Bravo Davide. È strano che chi come te difende la libertà, il diritto di bruciare la bandiera americana, ora se la prende con questi qui semplicemente perché stanno mettendo in imbarazzo quel coglione con i capelli gialli che ora governa la nazione più importante del mondo, per carità, perché quello per è un coglione può dire adesso, quello che vuole anche, no, può dire quello che vuole anche lui perché io sono dalla parte della libertà anche certo. Di Trump, Cruciani è un incoerente però pazzesco, c'è il diritto razzista, c'è il diritto a dissentire. Lorenzo, io non ho affatto messo in discussione la libertà di quelli di fare quello che vogliono, posso giudicare i gesti. Chiaro? La libertà è anche giudicare i gesti. E io la giudico. Sono neri, allora ma non che c'entra neri e bianchi, tutti quelli che si sono non scioperano, non hai capito, non sciopero, non sai nulla. Non sai, cretino. Sei un imbecille, non sai nulla. Questo lapsus per poter dire così, ma in realtà sai che non ragione, sai nulla, non ti sai saluto, niente. Ti saluto, vai non Davide, sai continuiamo niente. Così. Madonna, continuiamo così. Cosa? Siete continuiamo in tanti, così, ragazzi, contro siete i razzisti, in tanti. Ignoranti. Sempre contro i razzisti, sempre, siamo qui in prima linea. La Zanzara. Amici miei. La prossima volta che vai al bordello in Austria voglio andare con Giovanni da Reggio Calabria. Io e Giovanni da Reggio Calabria, oh welcome! A così quando arrivano i troie, seduti, Carme e Giovanni, gli dici, voglio trombare una zozzona ibrida. Come Macron, chi si ibrida? Come Macron, o ibrida come Macron, voglio una mignotta ibrida come Macron. Ibrido come Macron. Caro David, vogliamo capire che cosa succede dentro il campo Rom di Castelromano? Cosa accade dentro il campo Rom di Castelromano, dove c'è la nostra amica Sabaeta? Si parla di ragazzi pieni di scabbia, bambini, zozzure incredibili, la solita cosa dei campi Rom che andrebbero chiusi. Chiusi. Allo? Pronto? Sì. Sabaeta? Sì. Come va? Siamo dalla radio, buonasera. Buonasera. Come stai? Oh. Ma è normale, non vi siete dimenticati di me. No, mai, per carità, cara. Come va? Mai. Stai lavorando, Sabaeta? Male, male, male. Sempre male, male, bravissimo. Perché sì, hanno bambini preso una malattia. Molto grave, molto grave. Cosa? Cioè la scabbia, la scabbia. Scabbia pieno, pieno donne, uomini, bambini. E poi cadano capelli di cani, di topi. Ma che disastro! Dentro in container. No, bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa. È un'emergenza. Sabaeta, io sono dalla tua parte. Ma bisogna aiutare queste persone. Aiutiamo queste persone. Aspetta, prego, un attimo, Sabaeta, no, dimmi una cosa. Qual è la situazione? Che c'entri i capelli di topi, capelli, peli di cane? Anche quelli. Ecco, mo ti spiego. Spiegami, no, sì. Non so che malattia che c'è qui a campo. Beh, quando spiega, siamo venuti a questo campo, sì, hanno portato una terra. Sì. E hanno buttato sotto, sì, e poi hanno messo cimenta sopra. E allora? E poi gli uomini hanno preso tutti i tumori. Ma chi? Adesso ancora tre bambini che hanno quattro. Denunciamo bambini tutti. Il tumore. E anche mio figlio. Ma non ho capito, Sabaeta. Senti, denuncia il comune, denuncia le istituzioni. No, bisogna dare assistenza legale gratuita. Sabaeta, scusami un attimo, io non ho capito. I bambini, quanti bambini hanno la scabbia? Pieno, tutto campo, tutto, tutto. Poi scabbia, poi altre malattie, quali sono? Tumore. Ma tumore, amica mia, non è che viene così, cioè, dice non è che è così, è come c'è l'amianto, c'è l'amianto lì. Ma che c'è hanno l'amianto buttato? Una discarica, che cosa c'hanno? I rifiuti abusivi, che ecco, cosa? Hanno portato una terra e acqua che non è buona, perché ci hanno detto tutti che non è buona l'acqua, che con quell'acqua non poveretta possiamo fare né doccia né lavare niente. Ma chi l'ha portata? Chi l'ha portata quest'acqua? È comune, ma tutta no di comune, quando era sindaco Alemano lui ci ha portato tutta questa acqua che era piena di sabbia. Cioè Alemano porta l'acqua avvelenata, che pare incredibile abbiamo però. Abbiamo portato questo al comune questa acqua. Ma non è che, scusami Sabaeta, ma non è che fatto nulla. Ma scusa, ma non è che il campo è un po' sporco, no? Non è che vivete sì un po' nella sporcizia. È troppo sporco. Beh, ho capito, troppo. Ma perché non pulite bene il campo? Scusa, la scabbia. Ma mica lei deve pulirlo, scusa. Ascoltami, che deve pulirlo lei? Ascoltami. Se tu vieni dove sto io, ecco, sempre vai pulito. Però ci sono altri sì che tengano sporco, ma appunto io appunto e i miei figli sempre prendiamo mondizia, andiamo a cassonetta, la buttiamo. Appunto, invece altri vivono nell'immondizia, nella sporcizia. Ecco, io voglio uscire da questo inverno, che salvo qualcuno, mie figlie e mie nipoti. Bisogna, sì, ho capito, non ce la faccio, non bravo ce la faccio. Ti diamo, Sabaeta cara, assistenza legale e gratuita, pagata dalla Zanzara. Nominiamo l'avvocato Trucco e facciamo causa al comune, al governo, alla regione, a nome di Sabaeta. Ti diamo assistenza legale gratuita, se vuoi, per sì fare questa grande sì battaglia. Ma quale sì battaglia, ma qua l'assistenza. Sì, sì, lascia stare. Andatevi a cercare una casa. Perché non esci via dal campo e ti vai a cercare una casa? Abbiamo paura, no, ha detto questo è un reato, ma io reati non voglio fare. Ma quale reati? Io, ascolta, ci sono i case abbandonate, ci sono caserme abbandonate, c'è tutto, ma noi moriamo tutti in questo campo, ti dico la verità, io ho 14 nipoti però pieni di sabbia, non ce la faccio più. Io non lo so come devo fare, sono andata a Quinta Colonna, sono andata dappertutto. Beh, lì non è che l'aiutano lì. La verità. Nessuno ma, non crede. Amico mio, ma se mai la verità di che? Se voi vivete nella sporcizia e nella merda, si può dire che vivete nella merda. Che cosa? Ma non lei. Ma vivete nella merda, vivete gli altri. La scabbia si diffonde perché siete sporchi, perché vivete nella sporcizia, nessuno punisce. Io se tu vieni a campo, ma vai a campo. Vedere vai a campo. Io abito. Ma ho capito, ma basta che accanto ci sia un'immondizia, è chiaro che arriva la scabbia pure dai tuoi nipoti, no? No, perché ci sono topi, tanti. Topi, bisogna intervenire. Bisogna intervenire. Hanno fatto buchi. Ma chi? Sotto dal container e entrano dentro e saltano su piatti. Come ti dico, grande, come gatti. Invece, i topi grossi come gatti. Chiudete questo campo. Siamo abbandonati da tutti. Ma siete abbandonati, cavatevela da soli. Andate a cercare le case in affitto. Andate a lavorare, amica mia. Cercatevi un lavoro. Mio. Chi mi dà a me lavoro che gli italiani non ce l'hanno lavoro? Lei, Sabaeda, sarebbe in grado di fare la segretaria di redazione a Radio 24? Ma no. Non so certo. Bene leggere, non so bene scrivere. Appunto, anche Cruciani non sa né leggere né scrivere, non si preoccupi. Molti giornalisti non sanno né leggere né scrivere, quindi non potrebbe si preoccupi. Potrebbe fare le pulizie a casa di Parenzo, per esempio. Sì. Le pulizie sì a casa Parenzo. Ecco, è perfetto. Pulizie a casa Parenzo. La Roma non la vuoi. Ho già con la scabbia con i bidocchi, non la vuoi. No, ma che scabbia, ho la tata. Io farei così. C'è il direttore di un giornale che si chiama Libero, il dottor Feltri, che secondo me, siccome ha diverse abitazioni, potrebbe aver bisogno di una persona come lei. Lei lo conosce il direttore Feltri di Libero? Feltri? Non lo conosce, per forza. Ti dico la verità. Andresti ad abitare nelle casette del comune? Nelle casette? Sì, perché no? Certo. Subito esco da campo con i miei figli. 800 euro dal comune li piglieresti tu, no? 800 euro per la casa. Mi danno una. Basta che mi danno dove posso vivere con i miei figli. Quanti ladri ci sono in quel campo, secondo te? Nel campo tuo? Ci sono ladri che non sono ladri. Ti dico tutta la verità. Quanti ladri ci sono in quel campo? Quanti? Ma ci sono! Quanti criminali? Non so contarli. Tanti ladri che rubano soprattutto. Sì. Cosa rubano? Portafogli. Ascolta, un portafoglio non è una vita. Basta che non va a ammazzare persone. Va bene, ciao. Ti dico la verità. Sì, ciao Sabeta. Ciao. Ciao cara. Ciao. La Zanzara. Partigiani, fascisti, comunisti, ma che cazzo ce ne frega? Italiani! Ma dove cazzo siete? L'Italia agli italiani! Italiani! Perché se in Italia stiamo andando dal culo è per colpa di buonisti del cazzo come te, hai capito? Per colpa di buonisti del cazzo come te. Vuoi venire in Italia, devi avere un credito, devi avere dei soldi, devi avere qualcosa. Non puoi venire qua a rubare, a stuprare. Vaffanculo, andate tutti a casa di Parenzo. Migranti, venite in Italia, tutti a casa di Parenzo. Tutti da Parenzo, tutti. Allora, Francesco dalla provincia di Pavia, vai Francesco. Ciao Giuseppe, guarda, volevo dirti una cosa veloce. Io trovo che tu abbia un forte carisma e nutro anche un po' di stima nei tuoi confronti. Sì. Intanto voglio segnalare una cosa, caro David. Hanno venduto in America, hanno battuto un'asta, le mutande di Hitler per $7,000. cioè un paio di mutande che furono di Adolf Hitler, cioè addirittura la scritta A.H. Sono state battute in un'asta negli Stati Uniti. Cioè Hitler aveva le cifre sulle mutande. Sì, sì, 1938, sì. In un posto nel Maryland qualcuno ha tirato fuori. Cioè nel 1938, mentre venivano approvate in Italia le leggi razziali, ha lasciato queste questo mutande. Qui aveva delle mutande con le cifre sopra. Ma naturalmente, assolutamente. Ma è un favoloso gadget, è la cosa che più, una delle cose che sono state più vicine ad Hitler, per cui sicuramente un neonazista, del Maryland o un collezionista ha preso queste mutande, $7,000 straordinarie. Aveva la testa di Hitler lì dentro, certo. Sai che dovremmo la fare? Testa di Hitler. Sai che dovremmo fare? Dovremmo fare ogni tanto un'asta di cose assurde, cioè un'asta di queste cose qui. Ma per me chi compra, chi spende €7,000 per comprarsi le mutande, beh, bellissimo, Hitler, le mutande di Hitler, le mutande bianche, detto con tutto il rispetto per chi le ha comprate, per me è un coglione, però ma per che carità, coglione, ma quando non mai? Discuto sui gadget che le persone si vogliono comprare, cioè non discuterò mai su questo. Vabbè, Francesco, allora? Me ne frega. No, niente, volevo dire che me ne frega niente, io penso me, cioè, che tu sto abbia un forte potere, nel senso che puoi influenzare tantissime persone. Vabbè, no? Allora? E io mi chiedo, ma come mai ti sminuisci da solo? Cioè, di cosa volte... stai parlando, Francesco? Di cosa stai parlando? Allora, fammi parlare. No, ma non parla, lo sai. Ma che cazzo c'entra? Lo sai com'è questa trasmissione? Non cominciare ma a filosofeggiare. Sì, dimmi, allora, ma, avanti, ma forza. Però ti dico, ma perché molte volte quando sai di aver detto una cazzata. Ma quale sarebbe la cazzata? Spiegami, quale sarebbe in la cazzata? In generale. No, ma dillo, dimmene una. Parliamo di una cosa. Ce ne sarebbero così tante. Ma parlami di una, non io non ma parlo inutile, per cose. Ma capisci il concetto un secondo, per favore? Senti, superiore. Francesco, ragazzetto, okay. ragazzi, forza, dimmi una cosa. Dimmi una cosa. Dimmi una cosa. Di 20 anni, sì. Dovessi portare un po' anche di rispetto. Io porto grande rispetto se mi parli di una cosa concreta. Non ti quando dici una cazzata, dimmi una cosa. Ma allora, dimmi guarda, una cosa, fare, avanti. Come esempio, non è ecco, una cazzata bravo. Che hai detto, ma una cazzata che hai fatto. Beh, dimmi. Per esempio, quando sei sceso al piano terra invocando... Ancora, è successo un anno e mezzo fa. Va bene, sarà successo, è successo un anno e mezzo fa. Ma di cosa stai parlando? Di cosa parli? Non sai nemmeno di cosa parli. Ma no, ma parlami di una cosa concreta, cretino. Parlami di una cosa concreta. Ma è bello che io ti voglio anche bene, mi diverto, no? Il problema è che cioè, non si può parlare con te perché hai sempre ragione tu. No, ma soprattutto non sai di che cosa parlare. Dammi un oggetto. Ma come no? Mi metto in discussione ogni giorno. Dammi un oggetto di discussione. Dammi una cosa. Hai ragione tu, va bene così. No, ma dammi okay? un oggetto di discussione, non sai di ma cosa parlare. Ma che continui a provocare, a provocare. Parlare più forte, ad alzare la voce. Ma stai qua, stai parlando. Guarda, allora, stai parlando. Tre poche parole. Se tu, dimmi, avanti. Se tu hai la coscienza pulita e pensi che io e le mie parole, il mio pensiero ti abbiano colpito, bene. Ma altrimenti di cosa parli? Io non devo, ma non io c'è non nessun pensiero. Non c'è nessun pensiero. È il nulla. È il nulla. Come te, il nulla come te allora. Senti, Francesco, se tu pensi che io sono il nulla, ma che cazzo chiami a fare? Va se bene. Pensi che sono il nulla, che cosa ascolti a fare? Spegni la radio e non ci rompere i coglioni. Se ragione, pensi guarda. Che sono il nulla, allora spegni questa radio e non ci rompere il cazzo. Oh, capito? Bene, se pensi che c'è il nulla, capito? Cioè, capito? Ma non è educato, perché tu che sei invece? Tu che ma sei? Io sono molto sei educato? Più ah, sono sei molto educato. Più parla con Parenza, che educato, avanti. Parla ma con Parenza. Ecco. Da che cosa la valuti l'educazione? Da che cosa la valuti? Non sai nulla, nemmeno la parola educazione, non la sai nulla. Nemmeno definire la parola educazione. No, però mi sembra una persona dalla voce pacata. Non sai di cosa significa educazione, non lo sai. Non lo sai cosa significa. Ma non sai cosa significa la parola educazione, non lo sai. Non lo sai. Sei un messia. Dimmi cosa sai. Dimmi cosa significa. Ma dimmi cosa infusa invece. Ma dimmi cosa significa. Tutto, gli altri non sanno niente. Ma dimmi cosa ma si. Ma non sai fare. Rispetti. Ma non sai fare un vedi, esempio concreto. Bene, fammi un esempio okay, concreto. Va bene, fallo. Non servono gli fallo. Capire fallo. Capisca, fallo. Ciao, fai un ciao, esempio, imbecille. Ciao. Paolo bene, da Milano. Ma vai punto, a cagare. Vai. Quello, spegni va la bene, radio ciao. Non rompere i coglioni. Dai, ciao, Paolo. Bello. Vai Paolo, testa di cazzo. Sì, ciao, Paolo, esatto. No, però non mi sembrava è una così testa male di cazzo che non sa qui. Fare manco un esempio, un cretino, dai, su. Non mi sembrava che stai anche dietro. Pacato nel ma suo eloquio. Ma pacato a dire nulla, sì, vabbè, certo, a dire nulla, mi certo. Sembrava non maleducato. Un cretino. Paolo, dai, un cretino, ne sì, faccio no, meno esempio. Dire una cosa. Apparenza, prima chiama una persona per darti il riferimento del suo razzismo. Prima chiama una persona e dice, no, i neri io li faccio lavorare, sì, li pago anche più degli italiani. Se fosse stata una cosa al contrario, sarebbe stata una forma di razzismo. Parenzo sarebbe saltato. No, invece Parenzo ha esaltato questo qua che assume solo migranti. Esattamente. Sì, mi è piaciuta quella storia, mi è piaciuta molto. Non ha il punto di riferimento, non ha nessun punto di riferimento. Quando capisce che la situazione è contro gli immigrati, le minoranze, ma che contro? Era a prescindere, non fa un ragionamento. Ma non è vero, assolutamente. Assolutamente, non è per niente obiettivo. E sai cosa succede, Parenzo? Che questo, il razzismo nasce proprio dalle persone come te, perché per eguagliare uno che è così. Sì, ma tu sei in viva voce, tu o sei in viva voce oppure hai qualcosa di acceso? Assolutamente, guarda, sono in macchina. Sì, ma è la radio accesa forse, perché sento un eco. Vabbè. No, allora? No, stavo dicendo che per eguagliare uno come Parenzo, alla fine si crea con questo buonismo un contraltare che porta la gente a sclerare. Va bene, Diego, vai Diego. Ma non c'è il suo buonismo, c'è la storia di questa persona che ha chiamato. Diego, che ha fammi detto sentire che gli immigrati che lui ha recuperato, che facevano la carità davanti ai supermercati, lavorano meglio degli italiani e assume solo gli immigrati. No, Parenzo, dovete detto, dirgli grazie, Parenzo, perché li ha tolti dalla strada, gli dà uno stipendio e li fa lavorare. Parenzo gli ha detto anche assumi solo stranieri, che è gravissimo. Non gli ha detto assumi anche stranieri, solo stranieri. Tra l'altro oggi Parenzo ha confuso la lesbica con quell'altra e dimostra di non aver letto un cazzo. Se lui ritiene, parlare, ma non cambia parlare, la sostanza. Non cambia la sostanza. Fermi, fermi. La lesbica è rimasta, quell'altra è andata via. Per cui cambia come la sostanza. Perché un partito di destra assoluto che ha come capo una lesbica non è il nazionalsocialista o la rifondazione del nazismo, ma è una destra che vuole una Germania tedesca e non... E perché quella se n'è andata allora? E perché se n'è andata? Ma non è la lesbica. Vabbè, che Diego, cosa volevi dire? Non ho capito. Volevo dire che in ordine al bacio di fronte alla non moschea, perché non è una moschea ma un centro culturale, bisogna organizzare un flash mob dove tutte le persone che desiderano vanno a baciarsi di fronte ai centri culturali islamici, che non sono le moschee, che non sono moschee, non sono luoghi di culto, non sono luoghi censiti come luoghi di culto, perché la libertà di baciarci dove cazzo vogliamo è non una è libertà in discussione. Italiana che nessuno ma non è in discussione, e allora non è in discussione quella libertà, stupido, non è in discussione, nessuno ha messo in discussione quella libertà. Fa quello che vuole, noi qui ci baciamo, facciamo quello che ci pare. Ma non è in discussione. Certo che ma nessuno l'ha messo certo in discussione, discussione. Allora, a te non ti bacia nessuno perché sei brutto come un cesso a pedali, ma non è in discussione quello. Tu sei un nano, sei brutto, brutto, e a te non ti bacia nessuno, soltanto se fai l'happening davanti alla moschea, ma neanche lì non ti bacia nessuno perché sei brutto, sei brutto. Una figura di merda come non mai, perché hai dimostrato di essere poveretto come non mai. Bisogna baciarsi di fronte alle moschee, dimostrare questi islamici del cazzo che qua siamo in uno stato laico, in uno stato libero, e loro professino la non loro c'è religione, nessuna ma non messa in discussione. Di nessuno mette in discussione allora il diritto a baciarsi, forza, nessuno. Allora Diego invece è sui una campi... fake news, sì, la tua. Su, è una fake. Sui campi rom cosa volevi dire, Diego? Campi rom è la soluzione per questo campo rom di Roma dove io abito, è semplicissima. Sapone, shampoo e idranti. La scabbia si toglie con l'acqua e col sapone. Se questi hanno la scabbia è perché non si lavano, si devono lavare. Anche Cruciani non si lava, anche Cruciani non si lava e non si usano gli idranti di Minniti. Usa gli idranti di Minniti anche per far lavare Cruciani. E ogni tanto si lava perché la scabbia non ce l'ha. Se questi hanno la scabbia sono sporchi, si devono lavare e vanno cacciati via. Anche Cruciani si fa la doccia una volta a settimana, eppure non useresti gli idranti. Offrigli un posto di lavoro come badante a casa tua. No, non vuole, non vuole la sabaeta. Ma perché la zingara a casa tua non la vuoi? Perché fai tanto. Non la vuole la zingara a casa sua. Quel posto, perché quel posto è già occupato. Perché i figlioletti se pigliano la scabbia è un disastro. Allora, beh, certo, come tu tutti, vuoi ovvio. Non la vuoi. Ma non la vuoi la nomade. Non la vuoi la nomade. Non ci sono filippini a casa mia, non c'è filippino. Trata meglio, perché la vita bella ti fa piacere, caro mio. Non la vuoi la nomade, non la vuoi assumere la nomade a casa tua. Non so cosa sa fare esattamente. Io ho già del personale, delle persone che collaborano a casa. Per l'amor di Dio, dico, offrile un lavoro, falla lavorare. Infatti la manderemo a lavorare da Vittorio Feltri. Quello ma che Vittorio Feltri, che non c'è un cazzo che la calcia giù da pedate dagli scalini, che è giusto che sia, offriglielo tu il lavoro. La bandia, io la casa mia è già, la quel posto è già, cosa vuol dire, è già occupato, ho già una persona adorabile che lavora con noi da tanti anni. Hai una moglie ricca e tu guadagni abbastanza. Ma quale ricco? Ma tu sei, ma quale, tutta gente che lavora, tutta gente che lavora siamo noi. No, gente che lavora e che non telefona alle radio a rompere i coglioni come te, perché tutta gente che lavora a casa mia, non è gente che telefona alle radio a dire scempiate come dici tu, stupidaggini, che poi per guadagnare un bacio, perché sei brutto come la morte, sei brutto come la morte, l'unico modo che hai, l'unico modo che hai per catturare l'attenzione è dire che di andare a baciarsi davanti alla moschea, perché sei brutto come la morte. Siccome sei brutto come la morte, allora aderisci a queste due. Assumi una rom con la scabbia. Mica sono un imprenditore io, mica sono un imprenditore. Massimo dalla provincia di Pisa, vai Massimo. Facciamo un hashtag, fatti il bidet prima, cioè lavati la faccia intanto. Vai Sergio, vai. Giuseppe. No, Massimo, dimmi. Massimo, dimmi. Senti, telefono a proposito per l'immigrato sulla tangenziale. Io non ce l'ho fatta, prendilo. Perché avresti voluto beccarlo? Ci ho provato. Hai provato a metterlo sotto, a schiacciarlo? Certo che sì. Ma dove? Dove? Tangenziale a Milano, dove? Col mio autotreno. Ma perché stavi là? Certo che stavo là, se no non te lo dico. Cioè in quel momento in cui c'era quell'immagine di quell'immigrato? In quel momento in cui c'era quell'immagine, non c'è, era troppo rischioso per gli altri, non per lui. Se no l'avresti abbiamo il numero di questo qua. L'avresti abbiamo messo sotto? Certo. Ma stai dicendo sul serio? Perché no? Cioè, quando ti ricapitano queste occasioni? Cioè di vedere un immigrato nero che vaga nella tangenziale di Milano? Io non dico che era nero, bianco. Sai, facendo una piccola correzione guidando. Bangate. Tanto mica era colpa tua. Certo che no, che non era colpa tua. Stavo in mezzo alla strada, dici. No, però potevi fare l'incidente se lo pizzicavi. Appunto, però io allora ho evitato per non rischiare di fare incidenti. Se no, così distinto l'avresti schiacciato. È perché... distinto, certo che sì. Ma perché vuoi il telefono di questo, Davide? Non ho capito. No, perché lo voglio fornire alle autorità competenti, alla magistratura, a chi si occuperà del caso. Ma quale caso? Ma quale caso di che? Ma il caso di che? Il caso di una persona che istiga a... Io non istigo niente. Di un disturbato mentale, sicuramente. Poteva succedere qualcosa. Lei, secondo me, è un disturbato mentale. A parte che non avrebbe avuto il... Lo dice alla radio per fare il ganzo e come dire, esaltarsi con i suoi amici imbecilli, dicendo, ho chiamato alla zanzara, ho detto alla zanzara che volevo investire un negro. E quindi si vanterà con quei quattro imbecilli che lei frequenta dalla mattina alla sera per esaltarsi di questa bravata che ha fatto. Dopodiché... Quando domani mattina si sentirà bussare alla porta, chi è? Carabinieri! Aprono e dicono: scusi, lei è quel coglione che ieri ha telefonato alla radio, ci può seguire in caserma per mezz'ora? No, imbecille. Ma cosa stai a dire? Ma te svaneggi alla grande. Imbecille. Grande, dai retta, e te svaneggi. Ma cosa stai dicendo? Imbecille, ganassa imbecille. Quello poteva rischiare di fare ammazzare noi. Allora, cosa ci faceva? Ma qualsiasi persona, qualsiasi parte del mondo venga, ma dove vedi uno paga per la tangenziale a Milano? Ma lei perché? Ma lei pensi, lei a quanto delira? Ma pensi lei ai danni che ha fatto dicendo queste cose in una radio nazionale? Che ha un minimo di cervello. Ma pensi lei? Cosa si mette a pagare per una tangenziale? Ma lei che ha un minimo, non ha un minimo di cervello, perché telefona alle radio? Fermo. Ma te ci ragiono, ma con un minimo di cervello, anche se uno viene Burundi, come ti metti su una tangenziale del genere? Te sei un rischio, allora vai eliminato. Fermi tutti. Cioè, ma ti rendi conto? Oggi sono qui a Montecitorio. Se tutti se avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1.000 euro. Vergogna, e io pago con la donazione dei nostri imputi. Tutti, Renzi, Alfano, La Zanzara. Ma per il buonista Parenzo, secondo lui è normale che si viaggi in autostrada, vero, a piedi o in tangenziale, solamente che se lo fa in italiano, beh, lì lo mettono dentro, non esce più, lo fa un neger, non succede un cazzo, non succede, perché questi non c'hanno niente da perdere. E lui dice che chi doveva prenderlo sotto doveva andare a fare i servizi sociali a pulire la stazione. Parenzo, datti fuoco che è meglio, buonista dei miei coglioni. Parenzo, li avete individuati questi tipi che dicono schiaccialo? Parenzo, ma vaffanculo, ma cosa ci fa sto negro scimmione di merda in mezzo a una strada ad alta velocità? Ha fatto bene, dovevano schiacciarlo come una formica sto merdoso. Vedrai che ti arriva la denuncia, bastardo che sei altro, stronzo che sei altro, vedrai che ti arriva la denuncia, stronzo che sei altro. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Ah, godo, quando sento Vittorio che si incazza così con Parenzo, ah, come godo, godo. Ah, bravo, bravo, bravo Vittorio, bravo, cazzo bravo Vittorio, mi fai godere, bravo, così con Parenzo, bravo. Ah. Partigiani, fascisti, comunisti, ma che cazzo ce ne frega, italiani, ma dove cazzo siete? L'Italia agli italiani, italiani! Naturalmente. Allora, caro David, abbiamo qui una persona che ci racconterà assolutamente nel dettaglio quello che ha fatto i comportamenti di un prete ribattezzato Don Euro, un signore in provincia di Carrara che esercitava la sua professione di prete in provincia di Carrara, ma in realtà ha speso un sacco di soldi dei suoi fedeli, delle offerte dei suoi fedeli, pari addirittura a mezzo milione di euro, forse di più, in festini, cocaina, mignotte, non solo mignotte, anzi soprattutto escort maschi, eccetera eccetera eccetera. Ora naturalmente noi non abbiamo nulla in contrario, però questo signore è un uomo di chiesa, no? È un uomo di chiesa, ribattezzato chi spende Don soldi Euro in prostituzione non mi piace per mamma nulla, mia però. La solita cosa adesso, ma battuto in cocaina va bene, in prostituzione no. Ma in cocaina la droga fa quello che vuole. Io dico semplicemente che uno che ha bisogno di comprare una donna perché non è in grado di conquistarla è un miserabile. Ma dovrebbe sentirsi lui stesso un poveretto. Abbiamo qui Francesco Mangiacapra. Buonasera, ciao Francesco. Ciao. Ciao Cruciani, buonasera, buonasera Parenzo. Come stai? Ma Mangiacapra è un nome d'arte, immagino. È uno pseudonimo. È assolutamente il mio nome, perché a differenza di Don Luca Morini, Don Euro, io ci metto la faccia, rivendico le mie affermazioni, rivendico soprattutto la mia libertà, la mia autodeterminazione, anche quella libertà sessuale che è alla base di tutte le libertà. Bravo, incluse Francesco, quelle bravo. Libertà di cui ha usufruito Don Euro per 22 anni di sacerdozio e per le quali non basterebbe una telefonata in radio per raccontarle tutte. Allora ricordiamo ricordiamo una cosa, Francesco. Allora, Francesco Mangiacapra ha scritto un libro diverso tempo fa, ricordiamo il titolo, Francesco, com'era? Com'è? Il numero uno, Confessioni di un marchettaro, dove tra i clienti appunto di cui racconto ci sono anche numerosi preti . E naturalmente è raccolta anche la vicenda di Don Euro. Allora ricordiamo una cosa, allora Francesco Mangiacapra, quante volte sei stato a letto con Don Euro? Beh, in realtà sono stato a letto varie volte, ma il comportamento poi di Don Euro in realtà era un comportamento che andava ben oltre l'andare con me. Si parla di festini, di orge vere e proprie, così come sono stati poi accertati dalla magistratura. La tua esperienza con Don Euro si limita alle volte? La mia esperienza si limita agli ultimi 5 anni con Don Euro, in cui l'ho conosciuto, perché l'ho conosciuto nel 2012, ma in realtà i suoi 22 anni di sacerdozio, come poi è stato accertato nelle indagini preliminari della Procura della Repubblica, sono costellati da tutta una serie di truffe ai fedeli. Sì, ma questo lo sappiamo. Adesso lui, tu l'hai conosciuto perché lui venne a Napoli, si spacciava per professore, no? Sbaglio. Lui venne a Napoli spacciandosi per un facoltoso magistrato. Altrove magari si spacciava per un medico e dava anche, insomma, prescrizioni mediche e quant'altro. Ma con voi, con te siete stati insieme oppure avete fatto cosa a 3, a 4? Che avete fatto? Anche, entrambe. Quante volte? Un po' di volte, ma quello che realmente conta. Pagava in contanti bene? Pagava in contanti, pagava bene. Il problema non è quando pagava, il problema è quando ha iniziato a proporre lavoro in cambio di sesso, millantando conoscenze con Renzi e con gli Agnelli. Addirittura. A quel punto ho scoperto che si trattava di un prete, googlando il suo numero di telefono, meglio il numero di telefono della parrocchia dal quale mi chiamava, e allora non ho esitato e l'ho immediatamente denunciato alla Chiesa, che però in realtà non ha fatto nulla. Cioè tu stai dicendo che a un certo punto hai scoperto che era un prete, offriva lavoro anche a te, immagino, in cambio di sesso. Millantava lavoro, naturalmente. Non poteva realmente... Chi hai chiamato lì? Il vescovo, il suo capo? Chi hai chiamato? Ho contattato il vescovo, il quale ovviamente si è negato, mi ha fatto parlare con il vicario generale, che in realtà è caduto in piedi perché ha raccolto la mia testimonianza come se questa non fosse nuova alle sue orecchie. Mi ha invitato a pregare per Don Luca Morini e ha sperato per troppo tempo, secondo me, in una sua guarigione. Quando mi sono reso conto che Don Luca non sarebbe guarito, allora ho deciso di rivolgermi alla stampa, perché nell'inerzia dell'attesa della guarigione di Luca Morini, la Chiesa continuava a tacere e lui continuava evidentemente a fare marchette, eccetera, cioè a fare marchette, cioè a pagare escort, eccetera. Ognuno è libero però di fare con le proprie tasche. Allora, io voglio capire una cosa, no? David, tu credi al fatto che Francesco Mangiacapra, che di mestiere fa il marchettaro, io lo dico in senso positivo, no? Ha fatto anche l'avvocato per un periodo, tu credi al fatto che lui voglia liberare la Chiesa da questo uomo, oppure pensi che non sia titolato a fare questa battaglia, questa denuncia? Ma i suoi atti sessuali mi interessano meno che meno, cioè non mi interessa niente. L'amore tra Mangiacapra sembra una barzelletta, peraltro. Mangiacapra e il prete sembra il titolo di un romanzo di Mangiacapra Topolino. Mangiacapra e Don Euro, è un titolo di un romanzo strepitoso, comico. Ma com'era fare sesso con Don Euro? Scusami, Francesco, com'era? Certamente non era piacevole. D'altronde non ho mai fatto sesso con Don Euro per divertimento o per libidine, ma l'ho fatto per soldi. Cioè, com'era? Grasso, soldi. Mi sembra dalle foto che ho visto, era grasso, pelato. Era il quanto di più brutto ci si possa immaginare. Ma era almeno era diciamo in qualche modo attivo, oppure era anche là mezzo impotente, che ne so. Diciamo che non era propriamente il meglio che si possa sperare. Cioè, da quel punto di vista non gli tirava nemmeno, cioè per dire, ma per diciamo capire. Diciamo che la questione è che il divertimento che si cerca quando si fa uso di droghe poi insomma va a essere compromesso. Cioè tu dici che naturalmente quando uno prende la cocaina alla fine non te tira più, questa è la sostanza nei fatti. Tu l'hai detto. No, ma questa è la realtà. Fermo, ritorniamo con Francesco Mangiacapra. Mangiacapra e Don Euro fra pochi istanti, ragazzi, pochi istanti. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap. Buonasera Giuseppe, buonasera Rotto in culo di Parenzo. Detta una cosa, io sto andando in Slovenia per lavoro. Domani sera voglio andare a Mignotte. C'era uno che è andato a prostitute. Sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo. Perché devono rompere i coglioni a chi va a puttana? Io ancora non l'ho capito. Riguardo gli sms alle mogli di chi va a prostitute, pensa che io avevo un caro collega che si divertiva a frequentare donne sposate. Nel rapporto le faceva sempre inveire contro il marito. Sì, quel cornuto, fammi godere nome come quel cornuto il mio marito. Poi diceva, chiama per nome tuo marito, questo lo chiama per nome. Tutto registrato. All'appuntamento dopo chiedeva rapporti anali. C'è chi ci stava, chi non ci stava. A chi non ci stava faceva sentire l'audio. Faceva sentire l'audio e diceva, guarda, oh, mi dai il culo, ho questo video, questo audio finisce a tuo marito. Ora, io gli ho detto, sei un verme ed è un ricatto. Fossi stato io il marito, avrei preferito sentire l'audio e spaccarti le ossa, ma questa è la mia risposta. Comunque è uno sporco ricatto come quello di se vai a mignottero diciamo a tua moglie. La stessa infamia, la stessa merda, la stessa viscidume. Fate schifo, siete vergognosi, una merda. Allora ragazzi, prima di tornare con Francesco Mangiacapra, caro David, qui c'è tutto un mondo, altro che l'Italia vera, altro che l'Italia con la schiena dritta, c'è tutto un mondo di gente che vuole solo libertà, che vuole grande libertà, che non sopporta le multe, non sopporta i Nardella, non sopporta il moralismo, non sopporta gli islamici, non sopporta gli islamici che non vogliono che ci si baci davanti alle moschee. Ma no, certi è una islamici. Balla. Ma che balla, ecco, ma appunto, quale balla? Comincia con non generalizzare, cosa vuol dire? Gli islamici non vogliono che ci si baci davanti. Ma che fregnaccia la Boldrini, è? La Boldrini è intervenuta oggi sul tema del fascismo, che oggi non abbiamo trattato perché sono giorni che vi facciamo una testa così, anche se a noi diverte molto. Sembra questo di tema. Essere tornati negli anni 30. La signora Boldrini ha parlato della questione del fascismo. Senti, tanto per, come dire, per rinfocolare un po', no? La signora Boldrini, mentre questo tema stava un po' scemando, è tornata a parlare di fascismo e dintorni. Questo si dimentica che aiutare i nazisti erano i fascisti. Quindi erano altri italiani che si mettevano contro i loro confratelli. E allora non si può parlare di fascismo buono e nazismo cattivo. Questa è una ricostruzione che non esiste, non funziona, è l'alterazione della storia. Quindi chi si ispira ancora oggi, purtroppo, al ventennio, non può in alcun modo rivendicare patriottismo, perché Mussolini consegnò l'Italia a un'altra potenza, la consegnò direttamente, e questo non è patriottico. Invece qui ti puoi scatenare, caro David, c'è, sai, quella storia degli arresti nel milanese, no? Nel nord Italia, del sindaco, per pure esempio. Il sindaco, certo. Il sindaco Edoardo Mazza, il quale è stato arrestato per corruzione. Non mi interessa neanche sapere di che partito è. Cioè, di Forza l'ho Italia, letto, di Forza no, Italia. Ma non mi interessa. Ma che non vuol mi interessa. Dire? Perché no? No, ti assicuro, vuol dire non ti interessa? Scusa. Non mi interessa il partito. Ma perché non ti interessa il partito? Bisogna dirlo il partito sempre. No, te lo dico da garantismo. No, non mi interessa. Che c'entra il garantismo? È stato arrestato. Posso dirti che non mi interessa il partito? Non mi interessa il partito. Vabbè, mi interessa la condanna, il reato che viene contestato alla persona, non il partito. Non voglio fare generalizzazione. Avrebbe fatto dei favori. Non mi interessa il partito, non dirlo, non mi interessa. Avrebbe fatto dei favori, avrebbe fatto come dei favori. Non mi interessa chi commette un reato, se è un negro, se è un avanti. Giallo, se è un bianco. Mi fai andare avanti un attimo, mi fai andare avanti. Allora, questo sindaco avrebbe favorito l'Andrangheta in cambio di aiuto elettorale. Si chiama Edoardo Mazza, vabbè, c'è un'inchiesta in corso e chi se ne frega. Vi voglio far ascoltare però alcuni audio in cui il sindaco ad agosto attaccava per esempio la Boldrini. Sentiamo questa sulla Boldrini. Signora Boldrini, ricordiamo, presidente della Camera, terza figura istituzionale dello Stato italiano, che chiama questi personaggi risorse dall'alto dei suoi aerei di Stato, delle sue auto blu, delle sue scorte, di tutti i benefici che ha, ripeto, come terza carica dello Stato. Allora, per carità, l'arresto non è una condanna, però questo signore che ha appena parlato è stato arrestato, il sindaco di Seregno è stato arrestato per corruzione, avrebbe, ripeto, aiutato delle cosche in cambio di voti. Ancora un audio di questo Edoardo Mazza, si presentava con le forbici davanti a Facebook, insomma, alle telecamere, il cazzo che è, strumento che molti vorrebbero usare per punire gli stupratori. Vi chiederete come mai ho in mano questa forbice? Questa forbice ce l'ho in mano perché rappresenta il sentimento di molte, moltissime anzi probabilmente persone, dopo i fatti accaduti a Rimini. È uno strumento che molti vorrebbero sicuramente utilizzare per punire questi animali. Allora, Francesco Mangiacapra, autore di un libro che si chiama Il numero uno, com'è la, il titolo esatto, Mangiacapra? Il numero uno, Confessione di un marchettaro. Allora, è un marchettaro napoletano, caro Parenzo, che è stato con Don Euro, ci ha raccontato anche qualche dettaglio della vita sessuale di Don Euro, ma che fine ha fatto Don Morini adesso? Perché a un certo punto, dopo essere stato scoperto, però mi pare che la sua attività non sia interrotta da quello che hai tirato fuori Don tu. Don Morini ha fatto la fine che vorrei fare io. Cioè? Vive attualmente in una bellissima villetta, sì, acquistata dal vescovo, sì, di circa 200.000 euro. Sì. Ancora percepisce lo stipendio da prete in pensione perché è parroco emerito, sì, vuol dire che è stato messo in pensione anzitempo, sì, a riposo, percependo lo stipendio, e in questi anni in cui era sotto inchiesta ha continuato a ricevere sovvenzioni dal vescovo, anche lui indagato proprio per ma queste sovvenzioni. Ma si dice che il vescovo sia stato un po' ricattato da Don Morini anche, no? Si dice che il vescovo sia ricattato, forse il vescovo aveva qualche cosa per cui poter essere ricattato. Senti Parenzo, ma tu ci credi? Cioè, perché alla fine Mangiacapra... quello che fa questo qua... Ma non lo so perché lo fa, si è divertito, ha guadagnato dei soldi, ha fatto l'amore con questo prete, con quell'altro. Ecco, perché alla fine hai denunciato, perché hai chiamato la chiesa? Con chi si... guarda, no, ti appunto, spiego. Perché cioè, senso, potevi, hai guadagnato dei soldi, Don Euro ti dava i soldi per fare sesso, perché a un certo punto ti sei e messo avrebbe in avrebbe continuato a darmi soldi se non lo avessi denunciato alla chiesa, quindi paradossalmente mi sono dato la zappa sui ecco, piedi. Ma perché dici di denunciare tutto? Perché in un mondo dove con l'inflazione dei titoli di studio e a causa del diffuso precariato i giovani non trovano lavoro, è gravissimo offrire o millantare lavoro ai giovani in cambio di sesso. Un atto abominevole. Scusa, ci credi Parenzo a questo diciamo posizione? Ci deve credere, perché io stesso che lui... da laureato, sì, da titolato sono passato per la crisi, per la depressione del mondo del lavoro e l'ho riscattata vendendo il corpo per non svendere il cervello e quindi non permetto che qualcuno possa vilipendere quell'intelligenza che ho tanto tentato di riscattare, non offendo che a farlo sia un prete che con i soldi delle offerte si paga i divertimenti. I divertimenti ognuno è libero di pagarli. E perché l'ha scoperto all'improvviso? E perché all'improvviso, dopo aver incassato? Perché all'improvviso? All'improvviso ho ricevuto una chiamata da un numero di rete fissa che era quello della sua parrocchia. Diversamente non avrei potuto neppure pensare che fosse un prete, semplicemente perché i suoi comportamenti erano ben lungi dall'essere umani, caritativi. Ma tutte queste foto di lui che bacia un escort e di lui in piscina, cioè chi le ha fatte queste foto? Sono foto fatte appositamente per dimostrare. Ma chi le ha fatte, tu o altri? Le ho fatte io, sono foto fatte alla chiesa per dimostrare che le mie accuse nei confronti di Don Euro precedenti, quindi precedenti a quando sono state fatte le foto, erano accuse vere. Io ho segnalato Don Euro al vescovo, nell'inerzia delle sue azioni mi sono trovato costretto a fornire delle prove. Vabbè. Diversamente sarei stato indagato anche io. Ma per estorsione o per qualunque altra cosa. Quanti anni ha sto Don Morini adesso? Ammettiamo sia vero. Ma 50, 60, non ricordo l'età. Beh, no, come non ricordi? Ci avrà 55, 60 anni. 55, 60 anni, sì. Non è di primo pelo. La vita se l'è goduta, in 22 anni di sacerdozio si è fatto bei viaggi. Adesso ammettiamo chissà, sia vero, ammettiamo pure sia cosa vero. Va bene. Beh, c'è un'indagine della magistratura, se non fosse vero la magistratura c'è l'indagine, per 2 anni. L'indagine c'è, senti, no, ma dicevo ammettiamo siano vere le sue buone intenzioni. Vabbè, ma tanto è ovvio che è vero. Scusami, Mangiacapra, ma il mondo delle marchette come va adesso? Ma non chiamarlo Mangiacapra, sembra uno scherzo se lo chiami Mangiacapra. Perché? Chiamalo per nome. È un mondo che non vede mai crisi, fortunatamente per chi lo fa. Non è denaro facile, è denaro sicuramente più veloce ma è quanto fai al mese adesso più o meno? Chi lo sa, chi si ricorda, forse niente adesso, perché da quando sono diventato noto evidentemente c'è meno fiducia nei confronti. Ma tu non fai distinzioni uomo donna, no? Ma io faccio distinzione di soldi, non di sesso. Di soldi, basta che si paga, più si paga meglio è. Ma che è un bel ambiente. Ma se uno, sono quelli che muovono il mondo. Se uno ti vuole affittare una notte, quanto si paga per esempio? Una coppia. La notte la fanno le infermiere. Cioè tu fai a prestazione. Ma chi è che vuole affittare mangiacapra? Cioè adesso parliamoci chiaro. Ormai sono abituato qui a vedere l'abisso umano più basso. Ma perché dire, l'abisso umano? Stasera mi affitto mangiacapra. No, non lo accetto. Ma fa un lavoro con un altro. Affitto mangiacapra. Ma vai a quel paese tu e anche mangiacapra. Stasera cosa fai? Cosa fai, amore? Ma non lo so. Affitto mangiacapra. Dai, siete degli sporcaccioni. Tutte e due. Siete due sporcaccioni. Per tutto il tesoretto di meno male, ma non si preoccupi che non offro una lira io per mangiacapra, mangia coniglio, che male c'è, mangia non ho capito, perché sei così moralista? Perché sei così moralista? Non capisco. Perché è tutta una porcheria, questa idea di affittare mangiacapra. C'è qualche irrisolto nella propria libertà sessuale. Ma c'è qualcosa di irrisolto. Mi diverto più di lei senza affittare i mangiacapra, ha capito? Vorrei vedere Parenzo rifletto nello specchio di chissà quale escort o trans. Addirittura, sì, certo. Comunque, non capisco il moralismo di Parenzo. Uno non capisco perché non si può affittare per una notte, per un'ora, per due ore, mangiacapra. L'idea ma è che un buonismo fine a se stesso, ma non c'è buonismo, c'è porcheria vostra. Porcheria vostra, porcheria. L'idea, prendo il telefono, dice: cosa fai stasera, amore? Io vado al cinema, tu a teatro, tu a sentire l'opera, tu stai a casa a vedere Netflix, tu Sky, tu la 7, tu guardi la 7. Tu invece cosa fai? Ah, no, io stasera, amore, pensavo di affittare mangiacapra. Andate a quel paese. In Italia. Capito? Bene, sì. Buon per te. Ma scusami, ma le coppie... Ne ho conosciute molti come Parenzo, sai? Sì, poi andavano a puttana di nascosto, però. Scusami, Francesco, ma le coppie ti prendono ogni tanto? C'è un grande mercato con le coppie. Perché fondamentalmente le coppie riescono, quando c'è dialogo, a vivere anche la libertà, chiamiamolo anche libertà. Passano una serata con mangiacapra. E passano una serata con mangiacapra. Andranno a cena, no? Andranno al ristorante, andranno a fare due chiacchiere, magari andranno prima al cinema, poi al ristorante. Ma se uno vuole prendere mangiacapra per un'ora o per due ore, perché non lo può fare? Perché fa schifo! Questa idea mi fa schifo. L'idea che entri a casa mia, mangiacapra, per fare delle porcherie, a me fa schifo. Ditemi che sono anormale, ma non è moralista. Mi fa schifo l'idea che passo una serata, una sera, anziché stare con la mia compagna a vedere un film, allora, andare a cena, venire a cena con Cruciani, fare due chiacchiere, fare l'amore con chi... l'idea è libero di fare bravo faccio le do un'idea, le do un'idea, allora faccia anche una piccola app ciò che vorresti, che non ti attirerebbe. Io non proibisco nulla, è moralismo. Io non proibisco nulla. Nel momento in cui condanni e stigmatizzi, stai socialmente proibendo. Ma io non proibisco nulla. Che ne pensi di Nardella? Francesco, per chiudere, che ne pensi di Nardella? Ma facesse quello che vuole. Vabbè, quello lo sappiamo, facesse quello che vuole. Questo lo sappiamo, multa i clienti delle prostitute. Vabbè, che tu per strada non ci vai. Ragazzi, a domani. A domani, Francetta, abbraccio, ciao. Libertà, ciao. Viva la libertà, sempre, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.